notte che luna che mare, stasera mi pare scitati su una. Quest'aria serena che scippa do cuore, sospira d'amore, dormi non si può. Chiare a luna, dolce o viento, calme o mare, i caroli, stanottate sentimenti, non è fatta per dormire. Che bella, che dolce stanotte s'arria, se tu, vita mia, venisse a bucare una storia d'amore, te conta si viene, si cara ma tiene, risponde così. Chiare a luna, dolce o viento, calme o mare, caroli, stanottate sentimento, non è fatta per nottate sentimento, non è fatta per dormire.